se sarò così, una donna sola in qualche ristorante. Io che ne ho amati pochi e conosciuti tanti, che ancora adesso la memoria si spezza e si ferma anche il cuore, pensando a che fantastico profumo è una pelle con un buon odore. Forse sarò così, ma non lo posso sapere. Forse sarò così. Forse sarò così, o non avrò nemmeno il tempo di invecchiare, per poi non ricordarmi quasi più che cosa andavo a cercare. Che forse era qualcosa di bello che è andato via in un'ora. Ed è strano, proprio strano dirlo adesso, mentre lo cerco ancora. Forse sarò così, ma non lo posso sapere. Forse sarò così. Lo guardo in faccia questo tempo che si muove svelto fuori e lento dentro di me, che per quanti danni ha fatto non ha spento il mio sorriso, non ha scelto da sé. E se mi ha messo le mani addosso l'ha fatto senza dolore. Io ti capisco e non ti tradisco, povero stupido giovane vecchio cuore. Io ti nascondo nel mio profondo, povero stupido giovane vecchio cuore. Quando non starò più qui a stropicciare questi panni, io sarò andata via così, che ancora avevo 17 anni. Forse sarò così, seduta a riposare su un gradino delle scale, pensando come sempre dentro me che c'era il trucco e non vale. E in quale buffa capriola saprò se è stato un viaggio o una gita. Ma fino a quel momento ci sarò, perché ci sarà vita. Forse sarò così, ma non lo posso sapere. Forse sarò così. E allora stiamo a vedere.